violenti, tra virgolette, avversari nel mondo sindacale di Tobagi. Sono state vagliate anche quelle ipotesi e si sono rivelate infondate. Quello del volantino, dunque, così preciso e dettagliato, è un mistero che resterà sempre senza risposta. Ma è anche un mistero che fa nascere degli altri dubbi. Forse Marco Barbone non è davvero pentito. Forse Barbone non racconta tutto quello che sa. Ad esempio, ha minimizzato il ruolo avuto dalla sua fidanzata Caterina nell'omicidio di Tobagi, come ricorda in aula il padre di Walter, Ulderico Tobagi. La Caterina che faceva parte del gruppo combattenti comunisti, la Caterina che è accusata di aver rapinato il furgone che doveva servire per sequestrare mio figlio Walter nel 78. Nella casa della Caterina che viene steso il volantino, non lo dico io, l'ha detto il Barbone. Ecco, gli inquirenti cosa hanno fatto in questo caso? La ragazza di Barbone, alla luce anche di tutti gli altri elementi, delle dichiarazioni degli altri complici, appartenendo peraltro anche a una famiglia molto, comunque una famiglia di possidenti e comunque sia borghese, si era completamente allontanata da ogni militanza terroristica. Certamente, immagino ben sapendo chi era il suo fidanzato, ma non partecipando neppure a livello di appoggio, neppure morale, per quello che ci è dato ovviamente di provare, ad alcuna fase terroristica. Era la voce del giudice Armando Spataro, all'epoca procuratore aggiunto della Procura di Milano. La storia di Walter Tobagi riprende dopo la viabilità. Monge, alimenti naturali per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta... Mix 24, la storia. Dichiara il Barbone colpevole di tutti gli altri reati ascrittigli. Lo condanna per il delitto continuato alla pena di anni 8 mesi 6 di reclusione e per le contravvenzioni continuate alla pena di mesi 3 di arresto. Visto l'articolo 6 della legge 304-82, concede a Barbone Marco, Ferrandi Mario, Mazzolo Umberto, Morandini Paolo, Pugliese Pio e Ricciardi Rocco il beneficio della libertà provvisoria. Per l'omicidio di Walter Tobagi, Marco Barbone ha scontato poco più di 2 anni di prigione. Questo del resto prevedeva la legge sui pentiti che è entrata in vigore nel maggio dell'82, una legge che ha contribuito naturalmente moltissimo alla caccia e alla distruzione del Brigate Rosse. Ciò nonostante, le immagini della liberazione in aula di Marco Barbone, reo confesso dell'omicidio, restano molto difficili da accettare non solo per i familiari di Tobagi, ma anche per l'Italia intera, perché l'idea di un reo confesso di omicidio liberato in aula ha turbato le coscienze di molti. Per la figlia di Tobagi, Benedetta, come per sua madre e per suo fratello, naturalmente resta solo un dolore indicibile che si rinnova nella richiesta di perdono da parte di uno degli assassini di Tobagi. Tra i membri della 28 marzo, il palo al momento dell'assassinio, Francesco Giordano, invece ha cercato con una reale intenzione di comunicare a mia madre, per cui c'è stato un rapporto epistolare con questo ex terrorista che ha scelto di restare in carcere, per cui ha fatto una scelta molto forte. Lui ha chiesto di incontrarci e di venire a casa perché voleva incontrare anche i figli. E mia madre ha accettato. Io avevo 16 anni. In tutta sincerità devo dire che è stato un momento enormemente difficile, enormemente doloroso, perché comunque per lui era un momento di... Io immagino che sia una specie di purificazione andare a chiedere perdono. Quello che io ho vissuto è stato avvertire con incredibile intensità un dolore che mi ha accompagnato sempre, perché non è neanche questione di vendetta o... è proprio questione che la morte lascia un vuoto che inghiotte tutto. Renzo Magosso, giornalista e collaboratore di molte testate italiane, ma soprattutto l'uomo che sul caso Tobagi la sa più lunga di tutti. Più lunga di tutti, ma tu, Renzo, sei stato condannato comunque a pagare 250.000 euro al generale Ruffino in pensione. Perché condannato? Perché non hanno tenuto conto del fatto che io ho intervistato un protagonista dell'evento, cioè l'uomo che aveva in mano l'informatore dei carabinieri, che era questo Rocco Ricciardi di Varese. Ciondolo, Dario Covolo ha intervistato questa persona. Allora la Corte Europea ha già detto mille volte, e siamo dati, che quando un giornalista intervista un protagonista è esentato dal fatto, perché è il protagonista che parla. Questo protagonista in più è venuto al mio processo e ha detto: confermo parola per parola quello che ho detto al giornalista Magosso, quindi l'ha confermato in aula, ma in più ha detto: guardate che non soltanto io ho detto che volevano ammazzare Tobagi, ma ci sono altre due relazioni in cui ho fatto i nomi di chi voleva ammazzare Tobagi sei mesi prima, che mi ha dato questo Rocco Ricciardi. Benissimo, andate al comando generale dell'arma, là ci sono le mie relazioni, non le hanno ricercate. Chi non le ha ricercate? I giudici? Chi? I giudici del processo. Ah. Senti, però il tuo è un giudizio passato in Cassazione, no? Definitivo. Sì, è passato definitivo in Cassazione. Ecco, ma stando nel merito del delitto Tobagi, tu che sei uno veramente che l'ha sviscerato, tu avevi, se non ricordo male, avevi 15 giorni prima che Barbone parlasse, avevi scritto che era lui, sì, l'assassino. Quando arrestano Barbone, se mi ricordo bene. Bene. Ti ricordi benissimo, il 15 di settembre del 1980, io arrestano Barbone e scrivo: preso Marco Barbone è il killer di Tobagi, le informazioni vengono da Varese. Io non sapevo che esistesse questo Rocco Ricciardi, ma sapevo di questa cosa, sarebbe lungo raccontarlo, me l'avevano detto in camera caritatis. Ma il problema è che soltanto il 10 di ottobre, cioè 20 giorni dopo, i magistrati dicono, con nostro stupore, senza che lo aspettavamo, lui ci conferma, ci confessa, lui Barbone, che ha ucciso Barbone, lui ci confessa il delitto Walter Tobagi. Io posso essermelo inventato 20 giorni prima? Certamente no. Se lo sapevo io, lo sapevano anche gli inquirenti, e lo sapevano addirittura dal fatto che 5 giorni dopo l'omicidio Tobagi loro chiedono l'intercettazione al telefono di Marco Barbone. 5 giorni dopo, perché? Perché è evidente che sapevano fin da prima che era lui, altrimenti perché proprio lui, con una galassia di 5.000 persone? Vabbè, che giravano noi abbiamo sentito armato. Abbiamo sentito naturalmente nella storia che abbiamo raccontato, nella quale ci sei anche tu, abbiamo certo sentito anche i giudici e abbiamo ovviamente anche la loro versione. In ogni caso, certo, possiamo dire che a questo punto, su questo drammatico delitto, si sa tutto. Si sa tutto, ci sono state 6 interrogazioni parlamentari, tutte chiedendo come mai è stato ingiustamente condannato il giornalista Renzo Magosso. Le risposte non ci sono state. I governi che si sono succeduti di colore politico diverso uno dall'altro non hanno voluto rispondere. Chi ha risposto ha detto: i magistrati di Milano confermano che non c'erano i... Vabbè, che evidentemente qualcosa, qualcosa in più c'era. Però naturalmente se è arrivato alla Cassazione e la decisione della Cassazione c'è stata, insomma, ti resta la Corte Europea. Mi resta la Corte Europea, senza dubbio, e sono certo che la Corte Europea si renderà conto di questa evidenza dei fatti. Calcoliamo che, tra l'altro, il libro che avevo scritto era Le carte di Moro perché Tobagi. Sulle carte di Moro avevano chiesto 1,4 milioni di euro di danni e per la prima volta hanno dato ragione a me e hanno detto: sì, è vero, le carte di Moro in via Monte Nebrodo sono state fotocopiate, non restituite e non si trovano più. Allora, mi hanno dato ragione. Bene, e questo è un dato, questo è un dato importante. Bene. È il primo dato. Grazie. Grazie a te, ciao.